Alessandro, è un anno che ti ascolto e pensavo con questa voce, bellissimo, caspita, oggi ho guardato su internet e t'ho visto, mi è caduto un mito. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Grave errore, cara signora, mai, mai, mai commettere questo errore, rimanere ancorati ai ricordi, ai sogni e non approfondire mai. Allora, cari ascoltatori, siamo qui le 9 e 8 minuti, ci siamo anche oggi in diretta fino alle 11, noi, l'Alpino in regia, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione. Vi annuncio subito che il signor Leonardo Bonetti, in arte Manera, oggi ha deciso di rimanere in vestaglia e pigiamotto e quindi ci sta chiedendo i codici, non di lancio per farsi implodere dal balcone di casa, ma per collegarsi comodamente da casa. Si starà girando con una bella spremuta d'arancia, con il caffè d'orzo, perché quello normale fa male allo stomacchino. E ale, andiamo avanti. Noi siamo qui a tenere alta la bandiera dell'onore dei lavoratori d'Italia. Lavoratori, vabbè, insomma, ci siamo capiti, quella roba lì facciamo. Dai, 800 24 00 24, questo per intervenire in diretta. Se volete mandarci messaggi, sapete, 349 238 6666. Questi i numeri per mettersi in contatto con noi. Guardate che abbiamo tante tematiche da affrontare. Sono un po' malaticcio, non è il coronavirus, state tranquillo, ma parleremo anche di quello, come parleremo di altri temi. Vai Alpino! Enthusiasm about the future. E chissà se tra l'altro questo entusiasmo Conte lo ha comunicato a Di Maio, visto che è successo qualche piccolo cataclisma all'interno del Movimento 5 Stelle. Io invece devo dire, ragazzi, tenete duro due giorni e ancora forse tre, due credo, ed è finita anche questa campagna elettorale, ce la siamo portati alle spalle. D'altronde è così, vabbè, ma io ascolto con molto piacere i candidati che si alternano, da Simone Spezia a Maria Latella, e parlano delle cose concrete quando rispondono alle domande, però per il resto c'è uno sconforto davvero incredibile, cioè, su questa vicenda della citofonata manco che tra un po' facciamo una guerra con la Tunisia, come ci ha detto, suggerendoci tra l'altro, Lorenzo Nespoli, col rischio, quasi la certezza di perdere pure quella anche contro la Tunisia. Ma al di là di questo, io mi appello veramente agli elettori di Salvini, e, o meglio della Borgonzoni, comunque agli elettori della Lega. Ma davvero, cioè, siete così infervorati, poi ne avrò anche per la sinistra, state tranquilli, siete così infervorati da non riconoscere che quello è stato un errore? Cioè, per voi tutto quello che fa Salvini per principio è giusto? Anche citofonare a uno? Adesso ci sono i giornali un po' disperati, il giornale è alla ricerca a scartabellare tutti i precedenti penali di quelli che vivono in quella casa, hanno trovato forse che il fratello di quello che ha risposto ha detto sì, in passato ne ho combinata alcuna. Il Fatto Quotidiano invece dice che ha preso una grande cantonata Salvini perché ha citofonato la famiglia, assolutamente senza precedenti penali. Il 17enne addirittura è nato in Italia, gioca in una squadra di calcio, è insomma un italiano di seconda generazione. Ma davvero credete che si risolva il problema dello spaccio della droga andando a suonare allo spacciatore dicendo vieni, scendi, apri? Ma io davvero credete che sia quella la soluzione? Beh, dopodiché dall'altra parte lo sconforto qui è diventato totale, no? Ieri proprio vi ricordate che ho detto di questa intervista a Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, che dice sto con Salvini. E beh, e che problema c'è? Cioè, non può esprimere una sua idea Mihajlović? No, apriti cielo, figurarsi, potete immaginare l'orrore di quei bastardi che hanno anche lucrato sui social, ovviamente la maggior parte di costoro dietro falsi nomi, dietro falsi account, sul tumore di Mihajlovic, dicendo vota Salvini, d'altronde col tumore abituato, oppure alcuni che gli augurano di morire entro domenica. Peraltro, cari deficienti, vi informo che Mihajlovic non vota, quindi non è che domenica succede niente, non è che domenica va alle urne, non essendo lui italiano. Ma vi rendete conto l'odio che si è riversato contro Mihajlovic perché ha detto una sua idea? Com'era quella storia di Voltaire? No, non sono d'accordo con quello che tu pensi, ma mi batterò fino alla morte affinché tu possa continuare a dire. Altri tempi dell'illuminismo, adesso Mihajlovic non può dire nulla. Faccio questo, è stato un signore Bonaccini, il candidato per il Partito Democratico, che quando gli hanno chiesto di Mihajlovic ha risposto così. È deluso dal mancato sostegno di Mihajlovic, che si è schierato insomma dall'altra parte, diciamo così. Guardi, Mihajlovic sostiene chi gli pare. Io l'unica cosa che gli auguro è di vincere la partita più importante che sta combattendo, per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene, e tra questi c'è anche il sottoscritto. Cioè, capito? Non può volergli bene Bonaccini, pur se evidentemente Mihajlovic ha detto mi piace Salvini. Ma dove è arrivato l'impazzimento della politica? Arrivare a augurare la morte a uno. Oh! Tra l'altro mi ha colpito oggi il titolo del Corriere della Sera. Sul caso, a pagina 6, c'è già una polemica sui social. Sentite come il Corriere della Sera, a pagina 6, presenta la questione. Mihajlovic pro Lega diventa un caso. Ma il titolo sotto è quello più interessante. Divide i tifosi e scatena l'odio sul web. E ancora sotto, polemiche dopo il suo intervento. È un simbolo, doveva restare imparziale. Cioè, praticamente, il Corriere della Sera con questo titolo non è che pone Mihajlovic come una vittima, ma quasi come se fosse la causa col suo intervento di quello che ha generato. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Tra l'altro vi informo, cari ascoltatori, che se volete il prossimo bersaglio, cari cretini che sul web vi scatenate, potrebbe essere Arrigo Sacchi, il mitico, la rig Arrigo Sacchi, che non ha mai dichiarato da che parte sta, non di essersi iscritto a partiti, anche se non ha mai fatto mistero di votare Berlusconi all'epoca del Milan che vinceva tutto, bei tempi. Arrigo Sacchi oggi presenterà il proprio libro che ha presentato anche qui sul grande Milan, sul gigantesco Milan, sul Milan più forte di tutti i tempi e la squadra più forte di tutti i tempi, con il simbolo, c'è nella presentazione il simbolo anche Forza Italia Berlusconi per Borgonzoni. E quindi forse adesso avrete il nuovo bersaglio, il grande mitologico Arrigo Sacchi. Cioè, sto parlando ai cretini che oggi potrebbero scagliarsi sul web. C'è anche Celentano, se volete anche Celentano si è schierato. Lui sta con le sardine, se ho capito bene, Celentano. Senti Adriano, ma se per caso in Emilia Romagna, magari per distrazione, dovessero sbagliare a votare, cosa potrebbe succedere? Succederebbe un disastro. Vabbè, ma è questa canzone c'è, furbo. Sta con le sardine, però le sardine, no ragazzi, io vabbè, sentivo ieri da Flores, io va bene tutto, ma è un movimento molto composito, molto partecipato, e quindi va bene, si va nelle piazze, si sta lì, ma la risposta che vi voglio fare, un appello agli ascoltatori, vi prego, all'800240024, perché non dormo da ieri sera quando l'ho sentita la zanzara, voglio riproporla anch'io. La risposta che ha dato uno dei capi delle sardine, Santori, sulla questione della prescrizione, cioè Sallusti da Giovanni Flores gli ha chiesto che cosa ne pensa della prescrizione. Sentite la risposta del capo delle sardine, perché io vorrei invitarvi a chiamarmi per spiegare secondo voi che cosa voleva dire. Vai. Fareste o no, ne dico una a caso, la prescrizione dei processi, punto. Ma lei, Sallusti, se un bambino autistico quando gli passa un pallone da basket questo ritrae le mani, come riesce a passargli la palla e fare in modo che questo la raccolga con le mani che non sa usare? È un po' complicato come risposta, non ho capito. Sì. Cioè, per mia deficienza è la regione di Belsani, mi iscrivo nella lista dei deficienti anch'io. Non ho capito, vi giuro, non ho capito e non ho dormito stanotte al pensare a questa risposta. Qualcuno, qualche buon'anima, mi chiama e mi spiega esattamente che cosa volesse dire, perché sulla prescrizione non ha risposto. Cosa voleva dire con questa metafora sul bambino autistico? Sì, facciamola risentire e me la scrivete anche, perché voglio lettera per lettera, voglio ripeterla, se qualcuno chiama, per favore prendete appunti. Fareste o no, ne dico una a caso, senti, la prescrizione dei processi, punto di domanda. Ma lei Sallusti, se lei un bambino Sallusti autistico, quando gli passa, sì, un pallone da basket, questo ritrae le mani, come riesce a passargli la palla e fare in modo che questo la raccolga con le mani che non sa usare? È un po' complicato come risposta, non ho capito. So, per mia deficienza. Dai, quella è la regione di Belsani, però. Vabbè, quindi non avete scritto un pallone da basket. Vabbè. Allora, non lo so. Il primo ospite che è con noi, ma quasi quasi lo sfido, è un docente universitario, il professor Andrea Grignolio. Buongiorno, professor Grignolio. Buongiorno. Io l'ho chiamata per un altro motivo, che è quello molto importante del coronavirus. Ma lei ha capito? Lei è un docente, avrà capito la me... No, scherzo. No, l'ha fatto, devo dire, è un argomento piuttosto complicato. Poi, tra altre cose, devo dire, ha toccato un tema, quello dell'autismo, delicatissimo. Sì, esatto. Mi pare, esatto, che questi giovinastri vadano su temi piuttosto scivolosi, con troppa semplicità. A parte, comunque, vabbè, lei non ha capito bene la metafora, non no, lo so. Chiedo aiuto agli ascoltatori, chiamateci, perché abbiamo 2 ore di trasmissione e voglio arrivare a una lettura della metafora abbastanza precisa entro le 11. Allora, il professor Grignolio l'abbiamo chiamato, è un docente di storia della scienza all'Università Vita Salute di San Raffaele, conosce la storia della medicina. Allora, e per questo io volevo parlare con lei del coronavirus, di questo allarme, eccetera, ma non tanto sull'aspetto tecnico, sanitario, quotidiano. Ma intanto volevo capire, ma la paura per le epidemie è un qualcosa che ci portiamo da avanti da sempre, no? Nella storia. Adesso è solo l'ultima di una serie di queste paure. Beh sì, le epidemie hanno falcidiato Homo sapiens da sempre. Quindi fino a poco tempo fa, diciamo fino a una ventina di anni fa, gli strumenti erano quelli appunto un po', diciamo, storici, e invece adesso sono emersi a partire dall'inizio degli anni 2000 quella che viene un po' chiamata il sistema immunitario comportamentale, che poi è l'idea base per cui noi non solo siamo stati selezionati il nostro sistema immunitario per reagire naturalmente a virus e batteri, ma anche è stato abbiamo subito pressioni selettive anche da un punto di vista comportamentale, anche il nostro cervello, cioè noi abbiamo sviluppato una serie di reazioni comportamentali quando vediamo delle anomalie, no? Quando vediamo, per esempio, quando sentiamo colpi di tosse, quando vediamo reazioni cutanee un po' particolari, pustole, anche un po' il colore atipico della pelle dell'incarnato, queste sono tutte reazioni che portano a una chiusura della comunità. Sì. Sono stati fatti diversi esperimenti, c'è un'eccitazione del disgusto, abbiamo insomma comportamenti, diciamo, avversivi, non solo noi, tutti, diciamo, molti mammiferi e anche alcuni insetti. Ecco, hanno. A proposito di queste reazioni, cioè c'è stata un'evoluzione del comportamento anche dell'uomo, di come sono state percepite queste epidemie nel tempo, nella storia? Beh, questo tipo di comportamento, naturalmente il comportamento tendenzialmente è quello di chiusura, alcuni studi hanno messo in relazione per esempio il sentimento di alcune popolazioni che durante l'epidemia aumenta, diciamo così, il comportamento xenofobo, per esempio. Sì. E in questo caso, diciamo, in generale, adesso lasciando, come dire, da parte le scienze cognitive che studiano l'approccio delle diverse popolazioni, le diverse reazioni alle infezioni, certo, una cosa molto rilevante da dire sul coronavirus mi pare la seguente: al momento non è un virus che sembra così spaventoso. Cioè c'è una differenza, la popolazione percepisce in modo diverso il rischio, cioè, tra rischio percepito e rischio reale. Noi, diciamo, tutti noi per un'influenza stagionale bisogna considerare che ci sono dai 3 ai 5 milioni di casi nel mondo, e ogni anno muoiono da 200 50.000 a mezzo milione di persone per la normale influenza stagionale. Sì. Però diciamo nessuno si mette le mani nei capelli, perché esatto, è una cosa costante, lo sappiamo, è distribuita. E qui cosa c'è? La novità è la paura novità del nuovo virus, la non novità, sconosciuto. Sì, certamente la novità spaventa, perché i coronavirus innanzitutto ricordiamo che sono della stessa famiglia della SARS, che aveva provocato insomma in 7 mesi 8.000 casi con 800 decessi, si sono estesi in 32 paesi e non si sa bene quali sono i cosiddetti reservoir, cioè gli organismi che in qualche modo veicolano e contengono questo virus, probabilmente sono i pipistrelli e alcuni altri animali selvatici, non è un caso che venga appunto da Wuhan, no? Perché è proprio un mercato così sul pesce, sulla fauna selvatica, vengono tutti lì, anche la SARS ha avuto quel tipo di procedimento. Dagli animali all'uomo. Degli animali che si chiama spillover, no? Cioè quando appunto fa il salto di specie, che è quello che ci spaventa, perché il nostro sistema immunitario è molto debole quando ha un virus nuovo, cioè quando non è abituato e c'è un salto dall'animale all'uomo, allora lì però possono diventare aggressivi. Mi interessava, professor Grignolio, la questione della chiusura, d'altronde la caccia all'untore o il guardare, come dire, in maniera strana l'untore, adesso sono, lo dico con grande, come dire, cercate di capirmi, virgolette, i cinesi, no? Dice, sì, oddio, adesso i cinesi, no? È una reazione anche umana accettabile, certo. Però ormai col mondo globalizzato cosa si vuole chiudere? Niente si può chiudere. Beh, diciamo, allora certamente ci possono essere una leva anche economica dietro, ci può essere, nel senso che in un momento di grande scambio economico con la Cina, naturalmente gettare come dire dubbi sulla loro capacità di contenere anche un'infezione può avere una ripercussione, l'ha avuta con la SARS, c'è stato, le borse asiatiche ne hanno risentito per un paio d'anni della SARS. Nel caso specifico sì, nel senso che c'è stato un famoso esperimento che è stato fatto in Canada da Schaller, in cui si chiedeva a due gruppi di persone di spendere dei soldi, di dire che cifra avrebbero dato per facilitare l'immigrazione di gruppi di persone. A un gruppo gli è stato mostrato gli sono state mostrate figure, slide su malattie infettive, rischi di malattie infettive, ad altri rischi diciamo di vita quotidiano. Al gruppo che sono stati mostrati le rischi delle malattie infettive ha avuto sensibilmente una capacità diciamo economica, ha voluto sostenere molto meno i flussi migratori, ma sono stati poi fatti anche altri esperimenti, cioè l'idea certo, appunto la paura di quello che non si vede, di quello che si può, di quello che non si vede, di popolazioni lontane, è qualcosa che ci portiamo dietro certo, da molto tempo. Allora facciamo così, professor Grignolio, intanto ci ha dato tanti elementi, come dire, storico-culturali, ecco, poi per la questione di cronaca ci aggiorneremo, e se voi seguite Radio 24 quotidianamente sapete che vi diamo notizie insomma di la diffusione di questo coronavirus che fa molto spaventare. Noi ci risentiamo, professore, io però voglio correre alla successiva ospite, perché è un avvocato e la ringrazio, so che deve lasciarci per andare in udienza e quindi fare il proprio lavoro più importante che un'intervista qui a Radio 24, ma mi ha colpito la notizia che ieri Luigi Ferrarella ha messo in pagina sul Corriere della Sera, e che il cui titolo è questo: il padre naturale le cerca in rete e le figlie su Facebook dicono cancellatelo. Allora, l'avvocato Grazia Ofelia Cesaro, che saluto, buongiorno, grazie di essere qui, è il legale di queste due ragazze che si sono rivolte a lei, si sono rivolte al garante della privacy e alla fine hanno ottenuto che su Facebook venisse oscurata questa pagina del loro papà naturale che le cercava disperatamente, rendendo tutto riconoscibile, nome, cognome, località, eccetera. Avvocato, come ha fatto a chiedere e ottenere questo blocco in qualche modo di ricerca? Allora, intanto come ho visto che è stato correttamente riportato, non vi è ancora la motivazione, quindi bisognerà aspettare la motivazione. Credo che però il risalto della notizia sia dovuto al fatto che finalmente vi è è stato riconosciuto il diritto alla privacy direttamente in capo ai ragazzi, cioè è stata riconosciuta loro la titolarità di poter maneggiare le loro storie secondo quelli che sono in realtà, voglio dire, le loro volontà, non quelle di altre persone. Sì, c'è voluto una sentenza del tribunale, però, perché fino a quel momento sia Facebook che il garante non avevano accettato. Io ricordo, perché poi questo è, diciamo, quello da cui parte tutto, che noi abbiamo una normativa molto importante, che è ovviamente la legge sull'adozione, la legge 83 del 184 dell'83, che in realtà proprio per le storie dei ragazzi adottati ha, come dire, una tutela, prevede una tutela rafforzata, addirittura è un reato penale, come dire, divulgare le notizie sulla sull'adozione dei ragazzi, appunto. Quindi, cioè, sta dicendo che questo papà rischierebbe un'azione penale. Allora, l'articolo 73 della legge dice: chiunque ne ha conoscenza a ragione dell'ufficio, per cui la figura dei genitori naturali potrebbe non rientrare nella fattispecie penale. Ma la legge è stata fatta, diciamo, oramai molti anni fa, naturalmente prima di Facebook e prima di tutto, perché proprio prevedeva che la protezione di queste storie per i ragazzi fosse fondamentale e che fossero i ragazzi a poter accedere domani alle loro storie con dei meccanismi di tutela. Infatti prevedeva delle soglie d'età, i 18 anni, i 25 anni, prevede la possibilità che lo richiedano a un tribunale, in modo che ci siano degli psicologi che li aiutano. Insomma, ha come baricentro la scelta la tutela dei ragazzi. Sì, la scelta dei ragazzi, cioè se i ragazzi vogliono, a un certo punto si possono informare, ma non gli può venire imposta in un sistema protetto, capisci? In un sistema protetto di salvaguardia della loro privacy. Il Far West, che naturalmente la nostra povera legge non poteva immaginare, ha spostato tutto, creando davvero un vero Far West. Per cui paradossalmente questa tutela rafforzata proprio su questi ragazzi è venuta meno. Allora, È venuta meno perché lei capisce che se qualsiasi persona si trova ad avere i propri dati lecitamente divulgati, può. Allora, avvocato Cesaro, per concludere, così lasciamo in udienza, uscendo un attimo dal caso delle ragazze che le ha difeso, cosa consiglierebbe di fare a un genitore, come in questo caso il genitore che magari a un certo punto della vita decide che ha la volontà, il desiderio di capire le proprie figlie, i propri figli, dove sono finiti, quali sono i passi legali, invece, i passi consentiti, cosa può fare? Deve attendere che siano i ragazzi, con la loro maturità, con il loro desiderio, a cercarli. Questo è l'unico passo voglio dire, il baricentro è sui ragazzi, sulle loro storie. Restituiamo a loro il diritto alla loro privacy, restituiamo a loro il diritto ad una crescita equilibrata e di poter accedere. Va bene, ma c'è almeno il modo di far sapere, come dire, papà o mamma vorrebbe la legge sull'adozione prevede una legge che ai tempi aveva una sua scientificità, anche proprio nella rispettare i percorsi evolutivi, prevede che vi sia la comunicazione da parte dei genitori adottivi della storia, voglio dire anche della precedente storia. Non c'è più quella che si chiama la seconda nascita, cioè tu sei figlio mio per finta, no, i genitori adottivi sono formati a questo, ma capisce che questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze di tutela, di crescita, di sano equilibrio sostanzialmente dei ragazzi. Cioè, il baricentro, quando non dobbiamo solamente dirlo, come dire, a parole, deve essere è quello dei ragazzi, dei minori, soprattutto. E questo deve essere, se noi, e questo è stato un po' l'asticella che ha fatto spostare questa sentenza. Va bene, questa sentenza dice: la privacy è in capo ai ragazzi. Noi, avvocato, la ringraziamo, ripeto, grazie a Ofelia Cesaro e l'avvocato di queste due ragazze che si sono rivolte a lei e poi al giudice, e il giudice ha ordinato a Facebook, nello specifico era questo il social, così come al garante della privacy, di tutelare queste ragazze, perché il loro padre naturale le cercava mettendo su Facebook i loro nomi, cognomi, la città di origine, insomma aveva fatto un appello a dire: aiutatemi a ritrovarle. e la privacy invece non consente questo. E ora da Facebook questi appelli sono stati cancellati. Allora io ho fatto questo appello, anch'io a mia volta ho fatto un appello molto più semplice all'inizio della trasmissione. Se qualcuno mi aiuta a capire esattamente la metafora utilizzata dal capo Sardina sulla risposta della prescrizione, una risposta un po' arzigogolata, complicata, vogliamo risentirla, caro Alpino? La domanda di Sallusti era: cosa farebbe lei, Sartori, sulla questione della prescrizione? Fareste o no, ne dico una a caso, la prescrizione dei processi, punto. Ma lei, Sallusti, se è un bambino autistico, quando gli passa un pallone da basket questo ritrae le mani, come riesce a passargli la palla e fare in modo che questo la raccolga con le mani che non sa usare? È un po' accidenti, complicato. Sì, infatti. Allora, arrivano tante esegesi della risposta. Forse intendeva dire che la prescrizione durata del processo è un problema irrisolvibile alle condizioni attuali, ci dice Piero. Questo secondo lui è la interpretazione della risposta. Qualcuno dice: per capire la risposta bisognerebbe interpellare Marzullo, non so, chiamare Marzullo. Forse la risposta di Sartori, che io interpreto come ho appena detto, è stata così sottile da sfuggire alle reti grossolane dei pescatori di sardine, ci scrive Gianni da Modena, e io sarei tra questi, non lo so. Qualcuno dice: forse non sapeva cosa rispondere. Secondo Diego non c'è peggior soldo di chi non vuol sentire. Non lo so. Ecco, ditecelo, secondo voi qual era il senso della risposta di capo Sardina? Intanto la pubblicità e poi pigiamone manera da casa. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 9:37 minuti, guardate che siamo quasi vicini alla soluzione, perché molti ascoltatori effettivamente ci dicono quello che anch'io penso che volesse dire il capo Sardina. Ma prima... Celentano sta con le sardine, Bud Spencer stava con gli ippopotami. Vabbè. A quelle di Bersani, rispetto a quella che ha detto la sardina, erano perle di saggezza, come metafore. Le metafore di Bersani. Secondo me, se Sallusti faceva questa domanda ad Alexa, otteneva una risposta migliore. Vabbè. Leonardo Pigiamone Manera, Vestaglione Manera. Eccoci. Vabbè, qua. Ne ho il diritto. Ho diritto a questa mia, ma questo mio semi-riposo settimanale. Semi-riposo, para-riposo. Sì. Stamattina mi sono alzato, sono andato a bere un caffè al bar Jimmy, quindi mi sono rivestito. Come sta, poi Jimmy? Sono tornato a casa e mi sono messo in pigiama. Bene, giusto. Quindi è anche una fatica, pigiama. È una fatica togliersi il pigiama, rimettersi il pigiama, però... Sì, ero quasi tentato di arrivare fin lì, poi invece ho detto: ma no, sto a casa. Che vabbè. Comunque, ma sì, secondo me è chiara l'interpretazione. Vediamo, dici la tua, perché molti ascoltatori ci hanno aiutato. E cosa voleva dire secondo te? Voleva dire fondamentalmente che è una domanda inappropriata, che non è il ruolo delle sardine rispondere a questo tipo di domande. Bravo, io la vedo così. Bravo, infatti molti ascoltatori, vabbè, c'è chi ci dite, chiedete a Spalletti, chi ci dice era supercazzo, la scemenza. In realtà questa è l'interpretazione che va per la maggiore. Forse, come scrive un ascoltatore, cosa chiedi a me che, come l'autistico, non sono, che non è in grado di prendere una palla, non sono in grado di rispondere, no? Infatti anche un altro ascoltatore dice esattamente questo, la metafora complicata, il bambino è lui, Santori, che non ha le mani, cioè non ha la preparazione per affrontare l'argomento e quindi per prendere, come l'autistico non sa prendere il pallone, e il pallone è la prescrizione. Sì, è stato un po' infelice utilizzare l'autismo per fare questa metafora, però insomma, l'interpretazione secondo me è quella. Ne convieni, caro Alessandro Milan? Ne convengo, d'altronde c'era un'altra delle sardine, l'unica delle ragazze, sono quattro i capi, diciamo, riconosciuti, e quando a lei è stata fatta la stessa domanda, lei è stata più esplicita, senza tirare in ballo palle da basket e bambini autistici. Ci chiedete le risposte, Io chiedo a voi, voi per caso avete delle risposte in merito oppure bisogna sempre lanciare la pallina? Io tra... sono contrario all'abolizione della prostituzione, lei è contrario o no? Allora, diciamo che in merito mi devo informare, perché... Quando lo sa, viene a dircelo. È stata, come dire, spontanea invece di tirare in ballo... Ma la cosa bella, quando c'è stata la domanda invece Sallusti a Santori, io l'ho visto quel momento, non è stata come l'avete poi fatta sentire voi, un po' tagliata e accorciata, c'è stata una pausa interminabile di Santori, più di Celentano. Questo ce l'hanno fatto notare anche alcuni ascoltatori. La testa stava frullando e pensava adesso cosa dico e ha tirato fuori questa straordinaria metafora, diciamo. Sì, che tra l'altro, cioè, appunto, tirare fuori una metafora del genere non è neanche, cioè, è quasi più complicato che informarsi sulla prescrizione e dire la prima minchiata che ti viene in mente, cioè dice sì, sono a favore del taglio della prescrizione, sono a favore, la prescrizione va fermata perché la prescrizione è abusata troppo nel diritto moderno, No, dicevo, poteva essere una risposta, insomma, così. Si vedeva proprio in quei 15-20 secondi che la testa stava cercando di trovare una domanda, non voleva dire non lo so e allora si è inventato questa cosa. Ma infatti, guarda, molti ascoltatori, tu che sei un attento osservatore e guardi questi talk show perché vuoi farti del male, hanno proprio scritto questo: guardate che comunque prima di rispondere si è preso una bella pausa. Comunque, Leonardo, c'è un articolo che tu non puoi vedere, non ti posso sottoporre, a meno che tu cosa fai in questi casi? Vai in edicola alle 7 e leggi 10 quotidiani per essere informato. Sono come Paolo Mieli ogni mattina si informa, immagino che abbia qualcuno che gli porta tutti i quotidiani, io non ho chi porta i quotidiani, ma accanto al Bar Jimmy c'è l'edicola di Nicoletta e io potrei usufruire tutti i quotidiani che non prendo normalmente, ne prendo uno. Certo, ecco. Certo. Va bene. Allora, c'è questo articolo che sicuramente quindi avrai visto su Libero. Qual è il settore che tira di più? Il settore dell'economia, prima pagina, più 12% di clienti, eccetera. Eccolo qua. Non lo so, ma immagino che sia quello delle chat, degli incontri privati, una cosa così. Non so perché tu subito hai pensato a questo, evidentemente. Perché comunque ho sentito sei che la famiglia affine, Berlusconi affine. Sono affine. La prostituzione, questo più 12% di clienti. Dire che gli incontri privati sono affine alla prostituzione. Vabbè, affine nel senso che in quelle chat ci sarà anche qualcuno e qualcuna che offre qualche servizio, no? D'altronde le escort sono 70.000, guarda qua, 50.000 si propongono online. 20.000 su strada, ma ormai... Questa è una notizia interessante. Interessante in che senso? No, nel senso in generale, se qualcuno volesse utilizzare questa notizia, a modo di saperlo. Io per esempio non ne ho mai usufruito, di incontri di questo tipo. Tra l'altro sarebbe stata stupenda adesso una delle tue famose frasi: ho avuto una fidanzata una volta. Mi è capitato una volta, sì. Ecco, vedi, no, vedi. Mi è capitato una volta a Bassano del Grappa, ero tanti anni fa. Sì. Pensavo di aver fatto colpo dopo lo spettacolo su una ragazza che era lì, che si era proposta di venire in albergo con me, io ero tutto contento, e poi invece il proprietario di questo locale, il signor Mimmo, che adesso non c'è più, è venuto da me quando io stavo per uscire proprio dal locale con questa ragazza e mi ha detto: guarda che quella è una prostituta. sì, questo ci avevi detto. Allora, attenzione, e ovviamente, non ci hai mai raccontato esattamente come è finita quella serata. Io tutte le volte chiedo. Questo rientra nella privacy, rientra nella privacy. Sì, come l'argomento di qui sopra. Vabbè, ho capito, certo, rientra nella privacy nel senso che non vogliamo i dettagli, però vorremmo sapere a grandi linee sì o no. Ma rientra nella privacy, poi. Ecco. Non me la sento. Non te la senti. Allora, per correttezza, effettivamente, ma qua non c'è nessuna denigrazione, ma un ascoltatore, ascoltatrice molto, molto infervorato o infervorata interviene sulla metafora di Sartori e dice: guardate che lui è un ragazzo, un uomo che si occupa di disabilità nella vita. Allora voleva dire che se sei politico e ti occupi di giustizia, valuti e decidi sulla prescrizione. Lui si occupa di disabilità e quindi lui sulla prescrizione non sa rispondere come un politico non sa rispondere sulla disabilità. Urca, certo che detta così era chiara. Cioè dico, io non so, io mi occupo di disabilità e quindi potrei farle, spiegarle tutto quello che vuole sulla disabilità, caro direttore Sallusti. Lei che fa il direttore di giornale e i politici possono parlare tecnicamente della prescrizione. Io mi informerò, per il momento continuo a occuparmi delle tematiche di cui mi occupo. Cioè poteva essere, no? Invece questa metafora è stata un po'... Un po' strana. È riuscito a far parlare comunque di sé. Ha raggiunto l'obiettivo in qualche modo. Tra l'altro oggi c'è anche un'intervista credo sul Quotidiano Nazionale, gli hanno detto: ma voi andate a fare il bagno al papete, ma l'acqua è fredda di sti tempi? La risposta è: ma noi siamo pesci. Così giuro la risposta: ma noi siamo pesci, siamo sardine. E vabbè. Vuoi tu lanciare il traffico, caro Leonardo? No, fallo tu che sei più bravo di me, io non sono capace. No, dai, stavolta tocca a te, una volta a testa. Allora, dalla mia casa nei pressi di Piazza Udine vi dico che è arrivato il momento del traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora... Caro Leonardo, devo aggiornarti su due questioni importanti. La prima è questa: due giorni fa stavo cucinando a casa e c'era Bonolis in sottofondo, no? E io pensavo a casa tua, no? No, cioè in TV, non so, avanti un altro. E ha detto questa battuta, ma io l'ho sentito, ho detto: no, ma non avrà detto così, figurati. Vabbè, lui è un interista, si sa. Ma senti che battuta ha fatto dopo una domanda, un quiz a una concorrente. Durante una partita di calcio, se il pallone prima di entrare in porta viene colpito accidentalmente dall'arbitro, è gol o non è gol? È gol. No, non è gol. Con le nuove regole introdotte nel 2019 l'arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco. Quindi se il pallone colpisce l'arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto, a meno che non sia la Juve. Meno che non sia la Juve. Grande Bonolis, gigantesco Bonolis, adoro Bonolis, bravo Bonolis. L'hanno massacrato ovviamente, Leonardo, tu puoi immaginare, gigantesco. Ma ragazzi, un po' di... tifoso interista, sì, se non sbaglio, fa un po' di ironia. Io stavo cucinando, ho detto: no, non ha detto a meno che non sia la Juve, perché se è così è un gigante, è un idolo, gli vado a stringere la mano. Spettacolare. Ma gli interisti non si riprenderanno più dal famoso episodio Ronaldo Giuliano di tanti anni fa, come noi del gol, come noi dal gol di Muntari, che ci ha rubato lo scudetto. Sì. Allora devo anche aggiornare, poi ci dici qualcosa di più profondo, un comunicato stampa di Saretta. Saretta ci ha mandato un comunicato stampa da Roma: nel chiedere scusa agli ascoltatori per il linguaggio poco consono a una diretta nazionale di ieri, sai che aveva usato una parolaccia e non ha dormito stanotte per questo, vorrei aggiornarli sulla situazione rifiuti. Ho cambiato percorso a Roma, tutto pulito da Gemelli, passando per la Camilluccia, Farnesina, lungo Tevere, Flaminio e fino a Prati. E quindi quindi a Roma le cose vanno bene, è una bella notizia. Ecco, diciamo, questo è il comunicato stampa di Saletta Spreafico, ne attendiamo altri nei prossimi giorni. Va bene. È bello che tu abbia corrispondenti in tutta Italia, vuol dire che sei amato inspiegabilmente. Soprattutto inspiegabilmente. Vai Leo, prego. Allora, ogni tanto capita, non è poi così frequente, ma ogni tanto capita che qualche nuovo virus si affacci all'orizzonte. In questo caso arriva dalla Cina, ma i primi casi si registrano anche altrove. Da noi in Italia ancora no, ma io già un po' comincio a preoccuparmi. Ci ho già pensato l'altro giorno: che faccio? Prima di andare in metropolitana metto la mascherina? Forse per me la metterei, ma poi temo di suscitare una specie di psicosi anche negli altri frequentatori del mezzo. Le raccomandazioni che danno le autorità competenti sono più o meno le solite: lavarsi bene le mani, non avere contatti con soggetti potenzialmente infetti. Io le mani me le lavo benissimo, 15-20 volte al giorno col sapone antibatterico, le mani mi si stanno squamando, ma il timore per il nuovo coronavirus supera il timore per la desquamazione dei miei polpastrelli. Sì, ma l'altra raccomandazione, non avere contatti con soggetti potenzialmente infetti. Fosse facile. Se io sapessi che un soggetto è potenzialmente infetto, me ne terrei sicuramente alla larga, scapperei. Ma come faccio a sapere che quel soggetto è potenzialmente infetto? Come faccio a sapere che la barra di sostegno sulla quale io mi appoggio in metropolitana e sulla quale un altro si è appoggiato prima di me non sia carica del famigerato virus? E se sento un soggetto starnutire, cosa faccio? Abbandono immediatamente la metropolitana oppure faccio finta di niente e, astenendomi più che posso dal respirare, arrivo fino alla destinazione prevista? Mi allontano velocemente dal soggetto in questione cercando ospitalità in altri vagoni? Forse potrei, ma spesso la metropolitana è troppo affollata per riuscire a spostarsi. Insomma, una volta che si entra in metropolitana non c'è via di scampo. Se capiti per caso nel vagone infetto, la frittata è fatta. La soluzione sarebbe, come sempre, barricarsi in casa e farsi portare il cibo dal commesso del supermercato, il quale però inevitabilmente ha contatti anche con altri clienti. Quindi anche in questo caso la soluzione non è definitiva e l'ansia cresce, anzi galoppa. Ma tra le varie raccomandazioni che hanno fatto le autorità competenti, ce n'è una che mi pare del tutto superflua. Dice: non andate in Cina se non è strettamente necessario. Ora io mi chiedo, chi va in Cina se non è necessario? Non è che come fare una gita in Brianza, di una mattina si sveglia e dice: stamattina non ho niente da fare, vado a fare un giro in Cina. A parte rarissimi casi, in Cina ci si va per lavoro. Quando è un appuntamento di lavoro in Cina, credo che sia complicatissimo riuscire a posticipare. Io, se dovessi andare in Cina in questo periodo per lavoro, sarei tesissimo. Probabilmente la tensione sarebbe sia per il viaggio in aereo, sì per il nuovo coronavirus, e allora collasserei prima di arrivare e compiango quelli che in Cina in questo periodo ci devono andare per forza. Resta il fatto che, di fronte a tutti i problemi e le discussioni con le quali quotidianamente ci misuriamo, quando compare all'orizzonte un nuovo virus potenzialmente pericoloso per tutti, tutto il resto invece assume un'importanza relativa, almeno per me. Per esempio il processo a Salvini, le elezioni in Emilia-Romagna, Harry e Meghan, Greta e Trump, niente, non me ne frega più niente di fronte alla tensione che provo ogni mattina in metropolitana al pensiero del nuovo coronavirus. E questo è anche un bene. Il coronavirus lo temo, ma anche lo ringrazio perché per un po' mi riporta ai problemi veri della vita. E ogni volta, guardandomi intorno con sospetto alla ricerca dell'untore, ecco, chissà che guardandomi bene intorno e staccando gli occhi dallo smartphone, al posto del nuovo coronavirus non possa anche incontrare gli occhi dell'anima gemella. Forse le malattie servono in fondo anche a questo. Oh, vedi che c'è sempre, se lo trovi e lo scovi, un fondo di positività anche in un coronavirus. La storia delle epidemie è bellissima. Per esempio, sai che la peste è stata portata in Italia dai genovesi. I genovesi erano ad assediare non so quale città dalle parti della Polonia e catapultavano dentro questa città i morti in modo che poi potessero trasmettere la peste all'interno di questa città. Poi a un certo punto i genovesi se ne sono andati con le loro navi e sono tornati a Genova, ma sulle navi dei genovesi sono saliti anche i topi che erano già infetti di peste. Esatto. Quindi attraverso i genovesi e i topi che erano saliti sulle loro navi la peste si è diffusa in Italia. Dillo, figli del demonio, maledetti genovesi, cani. No. Genova, devo dire, è una delle mie città preferite. Ho avuto anche una fidanzata. Vai. Ho avuto anche una fidanzata. Ecco. Vai a Genova dopo aver detto questa cosa. Ho avuto una delle fidanzate a Genova. Ma è 42. Guarda, è una delle donne che ho amato di più, devo dire. Lei mi ha lasciato malamente, quindi ancora ne ho un ricordo amaro. Va bene, c'è Marzio dalla provincia di Milano. Eccoci. Sì, buongiorno. Prego. Il mio era un intervento semplice, ascoltando appunto la trasmissione, ritornando sul discorso di quello che aveva affermato appunto il capo delle sardine, avendo visto poi una parte di la trasmissione di Porta a Porta. Mi ballerava un po' l'idea, sentivo gli interventi di altri appunto ascoltatori stamattina, dicevo, ma se questa è la chiarezza di Romare che dovrebbe, diciamo, sostituire la non chiarezza dei politici da parte delle sardine, ognuno ha inteso la sua cosa. Diciamo che molti ascoltatori ci dicono proprio questo, cioè la sardina voleva dire che non è lui, non è per sua natura destinato a rispondere alle domande concrete, ma di politica, ma a svegliare le coscienze, ecco, non è che deve rispondere, secondo lui, sulla prescrizione, tecnicamente cosa pensa di fare. Però lei, Marzio, coglie insomma questa scarsa chiarezza sui temi concreti. Scarsa chiarezza, diciamo così, che nel chiaramente proporsi come secondo me è un po' come il Movimento 5 Stelle all'inizio, sì, come tanti altri movimenti politici, cioè si proponevano con la novità delle chiarezze, mm-hmm, del parlare, e poi alla fine, dopo poche battute, giustamente ognuno ha percepito la sua maniera. No, no, ma va bene, grazie Marzio. Dobbiamo andare al giornale radio. Due domande veloci. Una domanda per Manera: ma le tue ex ti hanno sempre lasciato o qualcuna l'hai lasciata anche tu? Effettivamente tutte tranne una, mi hanno sempre lasciato loro. Ah, perfetto. Daniele ci fa sapere anche la famosa peste alla genovese. La peste alla genovese. Vabbè, questa non è male, non è male, sì, la peste, sì, alla genovese. Oggi vince lui, la peste alla genovese. Giornale radio 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, io non voglio bene, ma lo amo Bonolis, lo amo, lo amo. E Bonolis ha detto una cavolata. Secondo me è molto semplice. La sardina non sapeva cosa rispondere. Cosa gli chiedete ste cose? Il ritardo c'era in tutte le risposte di Sartori, perché c'era il ritardo del collegamento. Come on, Maniera! Mamma mia, oh, ma tutte queste donne che ti hanno lasciato? Porco cane, non capisco. Allora non sei uomo adatto. L'uomo adatto, già uno che sta, sì, barricato in casa, insomma, è quello che mi dicevano: non siamo adatti, non sei adatto a me. Quindi questo ascoltatore ha centrato il problema. Cioè, tutte così ti hanno lasciato: non sei adatto, a volte anche in modo più esplicito. Cioè, in modo più esplicito. Non lo so, cosa c'è di esplicito? Beh, ci sono vari modi espliciti. Ma non sono cose che interessano, non sono cose che interessano. È vero che c'era il ritardo nella risposta di, sì, Santori, ma è stato lungo quel ritardo, non è il ritardo classico di 2 secondi, 3. Un ritardo di, sì, 20 secondi. Sì, io non l'ho visto, quindi non posso pronunciarmi, ma mi fido di te. Ma vedi che invece gli ascoltatori sono proprio... amano entrare nella tua vita e prendersi cura di te. Per esempio, hai sentito nel giornale radio che allora forse la causa, l'origine, l'animale da cui nasce tutto di questo coronavirus è il serpente, è passato dal pipistrello al serpente. Allora vedi, l'ascoltatore dice: il coronavirus arriva dal pipistrello. Tu non avevi un pipistrello sul balcone che nidificava, caro? Sì, infatti ci ho pensato l'altro giorno. Ti conviene uscire e andare in radio? Arriva dalla Cina, magari viene qui a dormire sul mio balcone, tra l'altro defecando sul mio balcone. Ma adesso è un po' che non... Adesso che sto guardando, proprio adesso in questo momento, invece sì, vedo che ci sono dei residui di pipistrello. Quindi l'ascoltatore dice: ti conviene uscire e andare in radio, sei più sicuro lì. Ci chiedono anche: oggi Elisabetta Fusconi non c'è? No, sì, c'è, è in redazione, ma lei fa delle incursioni se ritiene, tanto voglio dire, voi credete che siamo i padroni qua del microfono, io e Manera? No, Manera sta a casa, io sono succube della redazione, e se Fusconi lo ritiene, quando ritiene entra, non è che io possa arginarla. Si vede che oggi non ritiene, fortunatamente, di dire nulla. Allora, caro Leonardo, c'è Antonella, ci chiama da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ascolti, io volevo commentare un po' il discorso, cioè la risposta delle sardine. Io non so, non ho capito benissimo la risposta che lui ha dato, però... Beh, ormai abbiamo capito colpita, la metafora, no? Io sono rimasta colpita dal dibattito in sé e da questo schieramento proprio spudorato dei due giornalisti, in particolar modo il direttore di Libero, che farebbe sì. prima, è un soldato della Lega, dovrebbe candidarsi a fianco di Salvini, va benissimo. Ma a volte poi lo fanno, cioè no, a volte no, alcuni, ma intanto non lo è, e comunque spostato così neanche il manifesto negli anni 70, dall'altra una parte, vergogna, immagino. Ma questa è l'informazione, cioè non hanno commentato minimamente la scena di Salvini al citofono, queste due persone, cioè né Sallusti né Senardi. Forse la trovano anche non deprecabile, no, non lo so. Dovevano avere il coraggio di dirlo invece, come hanno avuto il coraggio di dire al leader delle sardine per chi vota. Ma cioè dico, però ma ecco, anche lì c'è l'altra dai. Questione. Però scusi Antonella, faziosissimo questo dibattito. Faziosissimo. Allora, infatti, è per questo motivo che io i talk show non li vedo. No, sono delle commedie in cui ognuno recita un ruolo. La e peggior si figura, sa. La peggior figura l'ha fatta la categoria dei giornalisti. Questa è l'informazione. Guardi, no, continuo a leggere i giornali, non so fino a quando. Antonella, io veramente. Però non amo molto categorizzare. Ci sono. Lei che lavoro fa? Io faccio la docente, sono un insegnante. È come se io dicessi che tutti gli insegnanti sono dei fannulloni. Lo dite sempre. Ma non è vero, dai. Lo dite giorno sì, ma giorno non è vero, dai. Soprattutto ma non ci... quando comincia la scuola. Ma quando non, comincia no, la scuola, ma... voi ce l'avete sempre con i docenti. Ma guardi, no, ma che il problema contrario, signora. Guardi che ha sbagliato indirizzo da questo punto di vista. No, no, guardi, io vi ascolto e purtroppo, anzi più volte ho anche chiamato. Guardi, le do una notizia. Grazie Antonella, domani una sarò a Piacenza con grande piacere in una scuola perché mi hanno chiamato per fare dei dialoghi con gli studenti e benissimo, i docenti. Guardi, ma ci mancherebbe, ma voglio dire, ma allora perché dice che i docenti sono tutti fannulloni? No, perché invece quando inizia la scuola, categoricamente voi avete sempre il servizio della docente che fa questo, che va col minorenne, che poi non era nemmeno una professoressa, che si è andata avanti voi non so chi? Quanto a dire che era una docente. I giornalisti, ma vedi che lei categorizza. Io non mi spiace, non andiamo d'accordo. Dovreste essere informati d'accordo di quello che dice, invece non lo siete. Va bene, ecco, è come se io dicessi che tutti i comici sono amari. No, Leonardo Manera è amaro, ma ci sono anche dei comici che non lo sono. Adesso faccio la battuta per uscirne da questa situazione. Nessuno, ma io non amo le categorizzazioni. Quindi ci sono dei giornalisti bravi, dei giornalisti meno bravi, degli idraulici in gamba e degli idraulici che ti fottono i soldi e non sono capaci di fare il loro mestiere. E così via, dei docenti straordinari e dei docenti fannulloni. Forse Leonardo Manera dice però, che tutti i docenti... Però tutti gli idraulici quando vedono il lavoro dell'idraulico precedente scuotono la testa. Ovvio, questo si sì, può dire. Questo sì. A proposito dell'altra domanda, perché non l'abbiamo fatta sentire in audio, non ce l'abbiamo in audio, ma Antonella, quando... al capo delle sardine hanno chiesto lei per che cosa vota, ma quella è una domanda ma stralegittima e anche lì il capo delle sardine ha detto non intendo dire per chi voto agli italiani. Ma scusa, ma sei diventato ormai un soggetto politico di fatto, cioè sei in ogni TV, hai contribuito a portare centinaia di migliaia di persone in piazza, ma perché, cioè, che cos'è, una vergogna dire voto per... Perché loro non vogliono essere un movimento partitico, ma secondo te, scusa adesso, politico Leonardo, più che partitico. Tra l'altro la domanda è talmente banale, cioè secondo te è un movimento che è nato, ricordiamolo, contro Salvini, contro sì, il sovranismo, contro i populismi, contro il populismo e il sovranismo. Esatto, è nato quando Salvini era a Bologna e loro hanno fatto l'antipiazza, no? Ce lo ricordiamo. Allora, secondo te, domenica, votano per il candidato della Lega o per il candidato che non è della Lega? Cioè, voglio dire... No, la risposta è abbastanza ovvia. E allora dillo, cioè, la domanda... Ma perché uno può dire, la domanda è talmente banale, visto che siamo nati contro il populismo, che non voteremo certo quello della Lega. Ma loro non vogliono essere, diciamo, fagocitati da un partito, ecco, è questo il fatto, non vogliono essere... Non vogliono portare acqua a quel mulino in modo così... Capisci che c'è dell'ipocrisia, però dire se fanno tutto contro Salvini. Quindi lei vota contro la candidata di Salvini? Non glielo dico. Ma dai, ma scusami, ma è un può po'... anche darsi che annullino la scheda e scrivano Salvini no, senza esprimere preferenze. Va bene, c'è Gabriele dalla provincia di Bergamo. Comunque la signora, scusa, ha, sì? ha scoperto un po' l'acqua calda, cioè che ci siano dei giornali schierati da una parte o dall'altra non è una novità, insomma. Ma non è una novità, e poi lo dichiarano, cioè l'editore di Sallusti è Berlusconi, come dire, cos'è? Quindi Sallusti... Come anche il Fatto Quotidiano è vicino al Movimento 5 Stelle. No, sentiamo il traffico, poi andiamo da Gabriele dalla provincia di Bergamo. Un attimo di pazienza, Gabriele. Libera le emozioni e accende l'inesplorato. Scopri nuove strade, crea legami e connessioni. Immagina l'innovazione e vivi il futuro, cominciando dagli affettati. Con il salamino Calloni soddisfi ogni palato. Sempre buono anche con le fette di pane duro. Salamino Calloni, vivi il futuro. Uno, nessuno, 100 Milan. Ecco, ha ragione la signora, vergognatevi giornalisti, io gli ho risposto, ha scritto un messaggio, vergognatevi elettricisti, vergognatevi avvocati, vergognatevi tassisti, così, ho messo delle categorie, tutti. Sulle mani per gli studenti! Tra l'altro, Leonardo, e uno scrive i notai, i tuoi amici notai, ricordiamo, i notai. Va bene, io tra l'altro, allora, senza giudicare quelli che vanno in TV non mi interessa, ma hai notato, Leonardo, che poi gli ospiti, i giornalisti che vanno in TV, quanti sono? Una ventina, è il classico giro, no? Che si girano alle varie trasmissioni. No? Saranno una ventina, sono sempre gli stessi volti. Non ho capito perché quella ventina di persone dovrebbero, come dire, rappresentare la categoria dei giornalisti. Cioè, se quei 20 dicono bene, allora tutti i giornalisti sono delle brave persone. Se quei 20 dicono male, tutti i giornalisti sono dei farabutti. Perché si suppone che quei 20 siano la punta dell'iceberg, i più rappresentativi. Ma beh, sì, tu non ti senti rappresentato da qualcuno di quei 20? Sì, dici, sì, mi riconosco tantissimo. Io faccio fatica, come sai, a essere rappresentato da me stesso quando mi sveglio al mattino, figurati da un altro. Dai, Gabriele, che è lì da un po', grazie per l'attesa. Provincia di Bergamo, vai Gabriele. Buongiorno Alessandro e buongiorno Leonardo. Sì, io premetto che al contrario di Mattia Santori sono pubblicamente esposto, perché quindi a beneficio degli ascoltatori prendano la mia risposta come desiderano. Sì. Sono il coordinatore giovani per la Lombardia del Popolo della Famiglia, per cui avversario del fronte delle sardine in Emilia Romagna. Okay. La risposta di Mattia Santori è una non risposta, ma è una semplice variante di quella che ha già dato tante volte nelle trasmissione cui è stato, ad esempio una trasmissione di un emittente concorrente che gli chiedevano una posizione, sì, sui temi economici, lui ha risposto che è da qualche anno che non si occupa più di economia. Ecco, sostanzialmente. Sì. Perché prima sì, no. Perché lui sarebbe laureato in economia. Comunque, lasciamo perdere, okay, la questione. Ma abbiamo capito cosa voleva dire. Cioè, non sono io la persona, non sono il politico che deve rispondere tecnicamente su ogni singola cosa. Quindi è inutile che mi lanciate la palla come con questa metafora al bambino autistico. Non solo, ha pure accusato Sallusti di non sapere nulla di come si fa volontariato ai disabili, ma ha usato uno stereotipo molto diffuso. Non so Santori effettivamente con chi vada a fare volontariato e se vada a fare volontariato. No, dai, se adesso sì. Cioè, Non lo so neanch'io, ma voglio dire, se lo dichiara. Io non dichiaro quello il volontariato che faccio, per quello che soprattutto quando mi espongo pubblicamente. Comunque la sua immagine del soggetto autistico infante che ritira le mani di fronte a una palla non è una cosa. Non è che non mi è piaciuta. Io, avendoci a che fare per esperienza diretta tutti i giorni, tutte le ore, perché ce l'ho in casa, è una questione che si risolve nel giro di due lezioni di educazione motoria a scuola. Qualsiasi professore, diciamo, è una metafora che ha trovato infelice, ecco, quindi. Visto, no? Una palla, a meno che non fosse particolarmente resistente il bambino per altri motivi. Ma non è che hanno una disfunzione fisiologica per il quale palla non la possono prendere. Sono disabituati all'educazione motoria e a utilizzare le mani, per cui dopo un po' però... Va bene. Gabriele, quindi insomma da esperienza diretta dice le dà anche fastidio, perché è una non verità, insomma, lei dice. Allora, però dobbiamo introdurre un ospite, perché c'è una tematica che ci ha colpito. È una sentenza depositata in Cassazione relativa a una causa di separazione tra due coniugi, come ce ne sono tantissime. ci sono dei figli in mezzo, i figli che sono, come spesso accade, oggetto anche del contendere in questa coppia. A un certo punto il padre dice che vuole modificare il regime di visita con le bambine, cioè vederle di più. Che cosa poi va a verificare la Cassazione? Però, seguitemi bene, che quando sono affidate al padre queste bambine sono spesso in realtà i nonni, quindi i genitori del padre, che le tengono durante il giorno, anche perché il padre lavora. Una cosa che, insomma, spesso dicevamo, Leonardo, viva i nonni, no? Che sono il vero welfare della società, e quindi le figlie sono date ai nonni durante il giorno. La Cassazione dunque stabilisce questo. Allora, se il padre, quando li ha a fianco, lì in realtà delega ai nonni, noi non gli diamo la possibilità di vederli di più e di, come dire, modificare il regime che è stato stabilito, perché i figli che stanno troppo tempo coi nonni significa che questo genitore delega le proprie funzioni genitoriali. Caro Leonardo, ho capito, ma se lavora sì, certo, infatti, punto... Ma la cosa incredibile è che spesso da una parte si dice viva i nonni, glorifichiamo i nonni, e in questo caso invece diciamo darli ai nonni durante la giornata è stato un motivo per la Cassazione di dire allora questo genitore non è abbastanza in grado di gestirli. Questo è il punto di partenza. Ma io credo che... No, prego, fai pure con l'ospite. No, ne parliamo con l'ospite. Ovviamente. Penso che per un bambino sia anche significativo non solo la presenza magari del padre, che è fondamentale, ma anche magari stare in quella casa, per avere l'idea che casa sua è quella dove vive anche col padre. Quindi non è esclusivamente la presenza. Io la vedo così. I magistrati dicono il papà trascorre troppo poco tempo con le figlie e le lascia ai propri genitori. Allora, adesso non entriamo nel caso, ma il principio che è stato stabilito, che ci interessa discutere con l'avvocato Massimiliano Gabrielli, che è il coordinatore nazionale dell'associazione Padri Separati. Buongiorno, avvocato. Eccomi qui, buongiorno a tutti. Lei ha subito dichiarato che è una sentenza non in linea coi tempi, no? Che cosa significa? No, sicuramente ritengo che non tenga adeguatamente conto di quale è la realtà nel nostro paese, no? Un paese che oltre che storicamente, ma anche attualmente, anche in base alla crisi che stiamo vivendo tutti quanti, considera la presenza dei nonni una risorsa da valorizzare e non da penalizzare. Il discorso molto importante da fare è che questa poi valutazione di non la possibilità di delegare le responsabilità genitoriali ai nonni viene fatta solo unilateralmente, cioè quando è il padre che diciamo nei giorni in cui ha a disposizione del tempo per stare con i figli delega oppure lascia i figli ai propri genitori, viene penalizzato. Nel caso invece sia la madre a farlo, come ordinariamente avviene, nessuna valutazione negativa viene. Lei dice viene addirittura che c'è questo tipo. Beh, questa sarebbe però una discriminazione. Cioè, secondo lei le madri possono lasciare ai loro genitori e i padri non ai propri genitori? Beh, perché? Perché cioè, qual è il principio che starebbe dietro a questa? Il principio è della collocazione stabile dei figli presso uno dei due genitori. Sì. Un principio va bene. Ma perché il genitore, perché lei dice il genitore mamma può lasciarli a quel punto tanto tempo ai nonni? Perché questo è nella realtà quotidiana delle vicende che noi giudizialmente verifichiamo. Accade molto spesso che genitori turnisti che ad esempio hanno a disposizione molto tempo diciamo conseguenziale, in più giorni conseguenziali non viene data la possibilità di prendere i bambini che invece stanno a casa con i nonni materni. Quando questo però avviene dal lato del padre non viene considerato una cosa positiva. Quindi, ripeto, vengono utilizzati due pesi e due misure. Se i nonni sono da parte della mamma, va bene, il 95% dei casi. Vabbè, questo è quello, Leonardo, è quello che dice l'avvocato Gabrielli, cioè ci sarebbe proprio una vera propria discriminazione di fatto addirittura. Ma io tra l'altro mi chiedo perché a parità di genitori che lavorano entrambi la collocazione prevalente venga data praticamente sempre alle madri. Quando la, ma in realtà la legge sull'affidamento condiviso non diceva questo, è l'applicazione che i giudici hanno dato di quella legge, che è una legge molto equilibrata, che stabilisce il principio di bigenitorialità perfetta. Nell'applicazione data dai giudici nelle aule si è creata questa figura mitologica del genitore collocatario, che ovviamente si sostituisce a quello che era poi prima l'affidamento esclusivo a uno dei due genitori. Qui sta il problema. Cioè, nel caso in cui la mamma sia il genitore collocatario, come gestisce il tempo dei figli nella maggior parte del tempo che stanno con lei è cosa sua. Mentre invece se è il padre che magari per problemi di lavoro o per una gestione diciamo dei bambini che vengono seguiti nello sport, nelle attività sociali dai propri genitori, viene valutato addirittura negativamente. Sì, tra l'altro c'è anche questo messaggio in sé un po' controcorrente, no? Perché come ho detto in apertura di argomentazione, i nonni in genere sono visti come una, giustamente, come una straordinaria risorsa senza la quale molte persone non potrebbero continuare a lavorare, non potrebbero farcela economicamente, chiaro. Tra l'altro nella formazione del bambino è importante anche frequentare i nonni, sia paterni che materni. Quindi la legge stabilisce che un principio di bigenitorialità rispetta a entrambi i rami genitoriali, quindi non parla solo dei genitori ma dei rami genitoriali, che comprendono ovviamente in prima battuta i nonni. Per chi è fortunato e ce li ha, il problema di chi non ha i nonni è che poi ci si trasforma molto spesso nei papà dei centri commerciali, no? Perché non hanno diciamo, uscendo dalla casa coniugale in cui molto spesso si è investito tutto il patrimonio e le risorse finanziarie, i padri hanno la possibilità di appartamenti molto piccoli dove non poter accogliere i bambini, quindi negargli la possibilità anche di appoggiarsi a casa dei genitori veramente una discriminazione però, inaccettabile. Avvocato Gabrielli, poi di questa vicenda noi non sappiamo i dettagli, però i giudici della Cassazione avrebbero stigmatizzato la scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé la figlia e la delega tutte le funzioni genitoriali alla propria madre, quindi alla nonna. Forse forse è stato anche un po' ingenuo nel momento del monitoraggio, insomma, di questo signore. Intanto c'è da dire che la Cassazione non si pronuncia su un caso specifico entrando nel merito della vicenda, ma stabilisce dei principi e proprio per questo sono dei principi che possono essere applicabili generalizzati a tutte le altre vicende. Quindi quello sì, che questa era la Corte d'Appello, ovviamente la Cassazione aveva confermato quello che era stabilito dalla Corte d'Appello della sentenza. Diciamo, ripeto, senza entrare nel merito della singola vicenda, il principio di diritto stabilito dalla Cassazione però è un altro, e cioè che se il padre non collocatario nei giorni di propria pertinenza delega in maniera diciamo sensibile le proprie funzioni genitoriali ai suoi genitori, non merita di stare con i bambini quanto chiede. Sì, infatti un ascoltatore ci scrive: immagino fosse stata la madre, il problema non sarebbe esistito, che è esattamente ciò che Massimiliano Gabrielli ci sta spiegando, cioè che quello che vale per il padre non vale per noi. Nella realtà quotidiana delle cause che viviamo, delle controversie giudiziarie, la legge, ripeto, stabilisce un principio di equità, di trattamento e di considerare le figure genitoriali come uguali in partenza, però poi di fatto viene sempre stabilito il principio di una collocazione stabile con un genitore di riferimento, e soprattutto il genitore di riferimento non è soggetto a valutazione per come spende il tempo. L'altro sì. L'altro sì. Noi la ringraziamo intanto, avvocato Massimiliano Gabrielli. Grazie, ripeto, è coordinatore nazionale dell'Associazione Padri Separati. Leonardo, fammi chiudere con una battuta. Avremmo potuto chiamare su questo Amadeus, magari c'ha qualcosa contro i nonni. Il fatto che i bambini stiano coi nonni e quindi, come diceva Fiorello, si mette contro anche gli anziani e Ale e chiudeva il cerchio. È una battuta, ovviamente. Caro Leonardo, qua c'è un losco figuro che si aggira dall'altra parte del vetro in regia. È tornato da Vicenza, è tutto luccicante, tutto sbarrolucinante. Certo, Vicenza oro, quindi sì. Sarà tornato placcato. Sì. È placcato oro le orecchie. I capelli placcati d'oro. Sì. È vero, ha una tintura particolare di capelli, un biondiccio. Immagino strano. Immagino come godeva Mauro Meazza lì a Vicenza oro, a vagare per tutti gli stand e a farsi fare dei regalini. Sai che ci sono sempre noi gadget, sì, che sì, danno agli stand. Ma sai che ha preteso proprio di fare, come ha detto, a un certo punto è andato da una nota azienda produttrice, no, che io non nomino, lui lo farebbe ovviamente, ha preteso una piscina con tutti i dobloni per fare come Zio Paperone proprio, e l'hanno visto così vestito che sguazzava nell'oro. Ma guarda, sicuramente in quegli stand c'erano dei gadget così, no, un po' con qualcosa di oro, e lui però te ne danno uno. Invece ho saputo che Mauro Meazza ha preteso più volte di riavere quel gadget che ha poi chiesto in tutti gli stand. Sì, è stato un sì, perché li mette poi a confronto, vuole poi li rivende, tu sai che sì. C'è qua la carta dopo vetrata, sì, il sì, scartavetra toglie la polvere d'oro e poi va a vendere il suo chilo d'oro che ha recuperato nei gadget degli sì, stand. Sì, sì. Quando Meazza va a Vicenza Oro, poi il fatturato dei compro oro di Milano nei giorni successivi aumenta del 10-12%. Che va a rivedere. Mi hanno detto che è arrivato con dei sacchettini stamattina. Sì, sì, sacchettini. Chiamali sacchettini, delle sportone da... vabbè. Da centro commerciale. Dai, andiamo a sentire la borsa. 1, nessuno, 100 Milan. In their eyes is the place that you find, you discover that you love it here. You've got to stay on. Antonella, sei grandissima! Tutta la mia solidarietà, approvo 100%. Antonella è l'insegnante che ce l'ha con la categoria dei giornalisti. Brava signora, brava, bravissima. Io vedo tante di quel programma a televisione che fanno schifo e di giornalisti che parlano di politica che sono molto ma molto schierate da una parte e l'altra. E non è questo giornalismo, purtroppo. Antonella docente, si sente che sei docente, ma di sinistra, ma tanto di sinistra. Vedi, caro Leonardo, la nostra Antonella, amica Antonella, che si ce sente l'hai, che sei docente, ma di sinistra, ma tanto di sinistra, capisci? Ce l'ha con la categoria dei giornalisti. Io invece non sopporto la categorizzazione, no? E poi non capisco perché quei 10, 15, 20 giornalisti che vanno in TV e sono sempre gli stessi dovrebbero rappresentare tutta la categoria. È come se io dicessi, che ne so, che gli avvocati sono tutti dei delinquenti, perché conosco l'avvocato Maurizio Bianconi, che notoriamente è un po' un mezzo delinquente. Cioè, avvocato, sì, lo dici sempre, avvocato, anche a me, tra l'altro. Lo dico anche, avvocato Bianconi, anche... come sta? Come? Tutto a posto, avvocato. Sì, io la stimo parecchio. Lo so. Come va? Scherzo. No, è come se io dicessi che i politici sono tutti farabutti. Cioè, prima c'era. È una cosa che io ho criticato molte volte, questo modo di dire e di fare. Prima sì, Antonella diceva che tutti noi giornalisti diciamo che tutti i docenti sono fannulloni, ma io non l'ho mai detto, cioè c'è il docente fannullone, beh sì, voi lo dite, vabbè, allora di fronte voi lo dite, allora lo dico. No, ma hai ragione sulla categorizzazione, su dire tu, voi siete buoni, voi siete cattivi, voi siete storsi, È tipica della semplificazione. Sì. Di, no, è vero, è vero che però vanno in TV i giornalisti, i soliti, e sono schierati, cioè è vero, è innegabile, voglio dire. Non è che negano il principio base del giornalismo, che non è tanto l'indipendenza quanto che devono servire gli utenti, non chi governa o chi fa l'opposizione e si aspetta di governare. Vabbè, l'amarezza di Bianconi. È vero che negli ultimi anni si sono estremizzate però le posizioni. Una volta anche prima i giornali avevano delle posizioni, ma adesso sono talmente chiare ed evidenti che anche a volte è inutile sentirli parlare. Sì, però sai già quello per che alcuni diranno. La chiarezza almeno è segno del fatto che sai appunto che cosa ne pensa. Sai, si è abbassato il livello, si è abbassato il livello del dibattito, del linguaggio, della politica, quindi la eccessiva semplificazione porta anche una cosiddetta estremizzazione, perché è tutto di basso livello, molto via di basso livello, non diciamo tutto anche noi. No, non diciamo tutto, esatto, non diciamo tutto. E quindi abbassandosi il livello le posizioni appaiono più chiare. E questo è evidente, perché il linguaggio è semplificato e l'utente vuol capire subito se sei mela o se sei pera. Sì. Se sei mela, oggi non c'è più l'informazione, c'è il giornalista e come il politico, sono tutti pollo pippo, cioè la gente si può sentire dire una cosa e il giornalista dice quella cosa e il politico dice quella cosa, non è vero l'inverso. E non dovrebbero essere, come dire, contrapposti, ma il giornalista a fare il giornalista e due politici che la pensano in maniera opposta dovrebbe essere loro a fare così. Mai qui c'è tutta la rovescia. L'hai visto che in Emilia succede una cosa buffa che non ha messo in rilievo nessuno. Infatti adesso ti dico, no, perché io nasconde la candidata candidato nasconde invece e il candidato di là nasconde invece i suoi padrini romani. Cioè, è una campagna simmetrica. Quindi anche questa è fatta tutta, cioè, per Bonaccini nasconde quelli del PD, dici, esatto. E Salvini nasconde la Borgonzoni. Nasconde la candidata, perché Bonaccini e Salvini sono quelli due più televisivamente potabili. Sì. Tra l'altro, no, io ho un po' timore adesso a chiedere a Bianconi, Leonardo, qua dovremmo io vorrei chiedere di Maio, della Sardina, di cosa ha detto, ma io ho un po' timore, sai che Bianconi è uno che poi dopo, no? Io di Maio l'altra volta questa cosa di Renzi che hai detto che dici da anni con questa parola tosca, mamma mia, mi hai scatenato contro le nuove truppe renziane su Twitter che hanno iniziato però ha detto che conosci bene Di Maio, è molto peggiore. Attenzione, ecco. Bianconi conosce bene Di Maio. Io non mi fido tanto di questa premessa. Conosci, ma che ne sai tu? Hai mai mangiato con Di Maio? No, ma sono stato 5 anni a 10 metri di distanza, perché lui faceva il vicepresidente della Camera e l'ha fatto bene. E l'ha fatto molto bene, con molta misura. E quindi lo conosco e penso anche di averlo pesato. E secondo me gli hanno dato un ruolo che era eccessivo per le sue capacità. Ho capito, faceva 15 cose, ministro degli esteri, capo del movimento, tesoriere. Ministero degli esteri a Di Maio è una battuta, è quasi da Totò. Cioè, il ministero degli esteri a Di Maio indica il peso ridicolo del governo. Di Maio poteva fare tutto, ma non il ministro degli esteri. Non stiamo a specificare il perché lo si capisce tutto. Ha un'idea un po' della geografia un po' confusa, dell'italiano, non sa lì. Cioè, non è un uomo, non è un Gaetano Martino, non è un D'Alema, non è un Andreotti, non è neppure un Fini. Cioè, i ministri degli esteri hanno altre... È un po' da Totò. Ma ti chiedo questo, se vince, stavo dicendo Salvini, vedi che anch'io ci credo, se vince la Borgonzoni, perché questa si è definita l'Emilia Romagna come il luogo del... Cioè cade veramente, rischia di cadere il governo, tu che conosci un po' i movimenti... Io penso di no. No, cioè come se dovesse succedere... Io penso che questi sono un po' scappati di casa, lo dico male. Questi e chi? Questi deputati che ci sono ora e molti di loro sanno che non ci torneranno. Sì, perché tutti dicono cade il governo, ma il governo cade se non hai numeri in Parlamento, cioè non è che... Io non penso che cada il governo e comunque che finisca la legislatura, se la fanno durare fino in fondo, sanno bene che se cade il governo e ci riconsegniamo nuovamente ai vari Draghi di turno. Eccolo. E da Draghi e Monti, che sono molto peggio di questi. Quindi io penso che avrà uno scossone, riuscirà a paralizzarsi ancora di più, ma non penso, però posso sbagliare, non è nella logica delle cose di questa politica che cada il governo. Vabbè, insomma, vedremo. L'ultima cosa te la devo chiedere, le sardine, tu le hai viste le sardine? Cioè quella risposta che Sallusti gli ha chiesto? Un velo pietoso. Ma no, dai, c'è però uno, adesso... Un velo pietoso, c'è uno... che gli ha chiesto una cosa in alto, ha detto mi devo informare, sì. E uno poi gli ha dato un discorso che sembrava di quelli è tutta la trasmissione primati, no, scusa, dice qualche tempo che fa tu sapessi la mia mamma che mi ha fatto un castagnaccio. Mi ha risposto così. Sì, scusa, è tutta la trasmissione che la stiamo facendo. Cercare di capire. No, ma è tutta la trasmissione che ci stiamo interrogando. Cercare di capire la metafora che ha usato Santori sul bambino autistico. Sono veramente dei poveretti abilmente messi insieme. Dai, adesso dire dei poveretti. Perché no, la gente ha fatto una ricerca di mercato. Mm. E ha detto cosa vuole la gente. Vuole l'antisalvinismo. Esatto, cioè. Esatto. Qui bisogna fare una forma giovanistica di sinistra, fra virgolette, un po' frufru dell'antisalvinismo che è cattivo, eccetera, e l'hanno messo in. Che vuol dire un po' frufru? Che vuol dire un po' frufru? Vuol dire un po' giovanilistica, un po' canzina che fa Manuel Agnelli. Manuel Agnelli. Un po' da Luna Park. Come gli versi oggi, con le luci, con le cose. Uno che si definisce sardino. Ci sarà un pesce più ignobile della sardina? Ecco, sott'olio, va a palla, senza le delfini le mangiano tutte, non ha una caratteristica, non è buona, non è simpatica, non è bella. Cioè, è una cosa che fa. Ricordiamo che però sta stretta in piazza e da lì sono nati. Siamo tanti stretti con le sardine. Vabbè, dai, ciao. Il fatto che ci siano migliaia e migliaia di persone che però aderiscono a questo movimento. Quindi vuol dire che negli italiani è un'esigenza sentita. Ciao, avvocato, ti dobbiamo salutare. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, dai, intanto siamo felici perché si avvicina il weekend, noi pensiamo già al weekend pur essendo giovedì, e allora torna con noi il titolare della Vagone Tour, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, nello spazio della Vagone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Per esempio, alla scoperta dell'avveniristica Dubai, sconsiglio, l'aria condizionata in hotel crea un microclima siberiano. La magia di Disneyland con tutta la famiglia? Sconsiglio, la nausea dopo due giorni sul brucomela non viene neanche dopo la peggiore sproncia. Oppure una vacanza per scoprire le meravigliose spiagge di Bali? Sconsiglio, è meglio Bali vecchia. Piuttosto, grazie alla nostra agenzia viaggi Vagone Tour International, potete visitare la graziosa località di Beronzi Superiore, un piccolo gioiello della penisola, eppure inspiegabilmente non è ancora stata invasa dal turismo di massa. Lei per esempio, Milan, è mai stato a Beronzi? No, effettivamente no, no. Lei predilige le solite mete, anche se ormai molte persone stanno arrivando a Beronzi. Per esempio, la settimana scorsa a Beronzi è passato il pulmino del circolo di bocce di allegria, ma hanno recuperato il pallino che avevano perso e sono subito ripartiti. A Beronzi Superiore gusterete una vacanza graffiante come le unghie sulla lavagna. E allora perché non cogliere questa opportunità? E allora partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori di Vagone Tour International. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare dell'esclusiva promozione Inverno a Beronzi. Bella! È una simpatica gara di resistenza. chi riesce a rimanere sotto il campanile in costume da bagno per tutto il mese di febbraio riceve subito un euro da spendere negli esercizi locali, e gli euro diventano due se stai fuori anche di notte. Questa è la bella promozione. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi. Vediamo, Superiore. Vediamo. Per esempio, a Beronzi Superiore si può vedere Virginio, detto Gigio. Gigio, Virginio. L'uomo col cappello che guida da 50 anni senza avere mai imparato. Quando Gigio mette in moto sembra di essere in prima fila alle 24 ore di Le Mans per il motore che ruggisce. In prossimità del semaforo verde, Gigio rallenta, poi il semaforo diventa rosso e lui passa. Gigio mette la freccia quando parte e non la toglie più. Se qualcuno prova a segnalarglielo facendo gli abbaglianti, lui risponde con gli abbaglianti, perché pensa che sia un cordiale scambio di saluti, come fanno i camminatori sui sentieri di montagna. Il garage di Gigio è un open space di 400 metri quadrati per fare manovra. In salita Gigio aumenta le marce. Il suo sogno è andare sull'Himalaya, ma dice che non può perché non ha la sesta. Quando alla radio c'è una canzone che gli piace, Gigio tiene il tempo col piede e sfriziona. E questa è un'attrazione di Beronzi Superiore. Naturalmente, se si sparge la voce che Gigio sta per fare delle commissioni in macchina, il paese si spopola come durante la finale dei mondiali. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio, l'uomo con lo starnuto più potente dell'uragano Sandy, la donna che vive imprigionata nei suoi pantagets, oppure il prete che ci prova con le parrocchiane, soprannominato Don't Touch Me, non ci credo, ho detto. Le sorprese a Beronzi Superiore non finiscono mai, allora prenotate subito la vostra vacanza con Vagone Tour International per visitare Beronzi. Beh, ma insomma, che non abbiamo mai detto dove si trova esattamente. Ma ci pensiamo noi a portarvi, voi non dovete preoccuparvi di niente. Cioè, da dove si parla? Uno dove si fa trovare, se volesse mai. Beronzi è il luogo ideale per ogni punto di partenza, si trova solo 3 ore dal mare e a 3 ore dalla montagna. Potete decidere ogni giorno se andare al mare o in montagna, esatto, anche 3 ore dalla collina e 3 ore dalla pianura. Beronzi è così, è un luogo incantato e incantevole, con tante attrazioni, le abbiamo scoperte, attrazioni imperdibili. Beronzi Superiore, ricordiamo che esiste solo Beronzi Superiore, anche questa è una peculiarità, no? Naturalmente è una peculiarità di Beronzi Superiore. Va bene, noi la ringraziamo molto. C'è un ascoltatore invece che ci chiede: proporrei di affidare una trasmissione al clown Neronello. Vogliamo Neronello a Radio 24, cioè un'intera trasmissione. Stanno per arrivare grandi novità da parte del clown Neronello, nuove favole. Sì, nuove favole dove si intersecheranno più favole famose diverse, per esempio Hansel e Pollicino. Come? Come Hansel e Pollicino? Cioè che... Sì. Biancaneve addormentata nel bosco. Ma mi sembra... Dal momento che i bambini non sempre gradivano le mie favole, ho pensato di rinnovarmi. Mischiarle. Va bene. Ad esempio, do un'anticipazione. Sì. E la bella addormentata nel bosco, che quando si risveglia cade da una rupe nel mare, viene inghiottita dalla balena e un rapporto completo con Pinocchio. Vabbè, chissà questi bambini, queste care creature, come reagiranno a queste favole. Va bene, la ringraziamo molto, ringraziamo Vagone Tour International, ringraziamo il clown Neronello, ci risentiamo con Leonardo Manera, che forse verrà qui fisicamente, chi lo sa, domani chissà, chi lo vediamo sa. Un po' come va la giornata, vediamo, a domani. Uno, nessuno.